Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di precari, parliamo di lavoro, parliamo di giovani, parliamo di futuro. Le facciamo con Lorenzo Ait. Buonasera Lorenzo Ait. Buonasera, buonasera a tutti. Lorenzo Ait ha scritto il libro La rivoluzione dei precari, 5 passi per costruirsi un futuro senza incertezze, edito da Sperling e Kuffer, un libro che è stato presentato nel recente Festival dell'Economia di Trento dallo stesso Ait. È un libro che è dedicato ai giovani che hanno un grandissimo problema di entrare nel mondo del lavoro, un mondo del lavoro che sembra respingerli, che molto spesso li respinge. Ecco, allora chiediamo a Lorenzo Ait come è nato questo libro. Ma questo libro è nato soprattutto da esperienze individuali mie e di altre persone, giovani come me, che ce l'hanno fatta ma hanno dovuto attuare tutta una serie di strategie e fare cose proprio differenti rispetto a quelle che ci vengono suggerite. Oggi il percorso studia, trovati un lavoro e fai la tua carriera, non funziona più. Il problema è che è come se avessero rotto il giocattolo in corsa, tra l'altro ragazzi che si impegnavano, perché oggi un universitario è visto come un perdigiorno, no? Viene passato, certo, questo dai media, ma non è così. Cioè è cambiato un po' il mondo ed è invece non è cambiata poi il metodo, non è cambiato il metodo dell'università, non è cambiato il metodo della formazione, quindi c'è un po' uno spiazzamento tra i giovani che entrano in università volendo fare qualcosa e poi si trovano all'uscita che qualcosa che vogliono fare non c'è più. Il problema sì è proprio lo scollamento da una parte dell'università col mondo del lavoro, cioè, sono proprio delle cose differenti, ma dell'istruzione da fin dagli inizi. Noi conserviamo ancora queste scuole con le campanelle che in realtà riprendono le fabbriche degli operai. I sindacati hanno voluto togliere la campanella perché scandire l'orario con la campanella era disumano, era poco rispettoso. Rimane ancora a scuola. A scuola cosa ti insegnano? Ti insegnano soprattutto ad evitare gli errori. In questo mercato del lavoro, se tu sei una persona orientata ad evitare gli sbagli, non lavori, cioè non puoi far cose, non puoi fare l'imprenditore, non puoi metterti in gioco, non puoi neanche presentare un curriculum in una strada un po' diversa. Oggi si premia l'intraprendenza, chi ruba con gli occhi. Cos'è che ci insegnano a scuola? Si immagini se a scuola uno studente oggi si alzasse in un liceo, andasse a controllare come fa il compito il compagno di banco, dice sto rubando con gli occhi. Dobbiamo svecchiare un po' l'insegnamento. Ecco, svecchiare l'insegnamento, cercare di preparare di più i giovani a un mondo del lavoro che è diverso. Però ecco, la rivoluzione dei precari, cosa vuol dire? Che devono fare la rivoluzione, andare in piazza con i cartelli e abbattere questo stato capitalista, oppure questa rivoluzione è qualcosa di diverso? No, è qualcosa di interiore, nel senso che è proprio una rivoluzione culturale. Noi stiamo vivendo un secondo tipo di analfabetismo. Agli inizi del Novecento l'analfabetismo non era più tollerabile se volevi una vita dignitosa, socialmente civile, se volevi essere parte integrante della società. Oggi è l'analfabetismo finanziario, ma per analfabetismo finanziario intendo la distinzione, cioè saper distinguere tra l'economia globale e la tua economia personale, prenderti la responsabilità di quell'economia. Ci sono delle cose che se oggi non le conosci sei completamente tagliato fuori da una serie di possibilità che magari ti potrebbero aiutare. Il 99% della popolazione ha un conto in banca, l'1% forse conosce i meccanismi di come funziona una banca, ma non parlo di alta finanza, parlo di sapere quando dai 1000 euro a una banca cosa ci fa la banca, parlo di entrare in banca e chiedere se state facendo cassa o state facendo impiego per capire se i soldi li volete da me o volete darmeli, parlo di descrivere la tua idea imprenditoriale attraverso i numeri, cioè con un business plan, una way out, ROI, un minimo di proiezioni, oppure soltanto a parole. Cioè ci sono degli strumenti precisi che fanno parte della tua cultura finanziaria, che oggi se non li hai sei tagliato fuori, così come prima del Novecento era tagliato fuori chi non sapeva leggere. Quindi in pratica andare oltre la specializzazione, un giovane deve specializzarsi, ma nello stesso tempo avere una prospettiva sempre più ampia, avere una prospettiva sapendo cogliere le opportunità di un mondo del lavoro appunto dinamico. Sì, ma la voglio fare ancora più grave, visto che poi alla fine uno fa il provocatore, proprio una nuova branca culturale, cioè devi saper leggere, scrivere, fare di conto e occuparti della piccola tua economia personale. Ecco, c'è un capitolo interessante come titolo: alternative etiche allo spaccio di droga. Sì, in realtà è un titolo così divertente, anche tutto il libro ho cercato di farlo abbastanza scanzonato, anche se poi parlo di tematiche che normalmente possono sembrare noiose. In realtà parlo del sapersi vendere, del sapersi proporre, del concetto di vendita però in senso aperto, non di infilare il piede chiudere la porta e vendere. E alternative etiche allo straccio di droga parte da una battuta che i giovani preferiscono spacciare piuttosto che vendere, poi in realtà anche spacciare è una forma di vendita, però era più un modo per spiegare che ci sono delle alternative, dei modi di sapersi vendere. Io faccio un esempio: la differenza tra Van Gogh e Dalì non è nella bravura artistica, è nel fatto che uno si sapeva vendere e l'altro no. Van Gogh il più grande successo l'ho avuto da morto, e semplicemente non perché i quadri fossero ben dipinti o meno, sicuramente Van Gogh era un artista straordinario, ma perché tutti conosciamo la storia del pittore che si è tagliato un orecchio. Da lì passava, faceva due lavori, faceva il suo lavoro che era quello di essere artista, ma anche un altro lavoro straordinario che era quello di sapersi vendere e montare una macchina per vendere il proprio valore. Oggi dovrebbero insegnarci, oltre a prepararci, anche a saperci vendere. Non è possibile che un avvocato che fa 5 anni di studi e in quei 5 anni non gli insegnano a procacciarsi un cliente. E infatti... Ecco, quindi diventare imprenditori di se stessi, fare il marketing di se stessi e pensare che essere precari, come dice appunto il passo numero 5, che è un altro capitolo di questo libro, si passa dalla sicurezza alla libertà. Cioè, ma in pratica vuol dire accettare di essere precari e fare del fatto di essere precari un punto di forza, non un punto di debolezza. Sì, è capire che una volta potevi scegliere tra fare una vita sicura, una vita media più che rispettosa, più che dignitosa, o tentare l'avventura e magari creare la tua azienda, arricchirti, fare qualcosa che poteva andarti male, ma se ti andava bene era un ottimo risultato. Il problema è che oggi la via della sicurezza non dà più sicurezza, è un'illusione della sicurezza. Oggi il precario più precario di tutti, sa qual è? È quello che viene assunto con un contratto a tempo indeterminato in un'azienda, perché è la persona che non si crea il problema di cosa succederà se l'azienda fallirà. Il problema è che falliscono l'80% delle aziende. Certo. Ecco, c'è anche un tema abbastanza ambizioso, per non dire temerario, che è quello che si può fare l'imprenditore senza soldi, a costo zero. L'imprenditore senza soldi, ma in realtà non è una cosa nuova, è solo una cosa poco conosciuta. Io non conosco imprenditori che, se hai idee e hai tempo, perché mai devi metterci anche i soldi? Cioè, un'azienda si fa con idee, tempo da dedicarci, cioè competenza, tempo da dedicarci e denaro. Se io ho competenza e tempo da dedicarci, il denaro lo posso trovare. Il denaro c'è, basta trovarlo, insomma. Ci sono persone che te lo danno, devi ecco. Sapere però come chiederglielo. Questo indubbiamente, quindi si tratta anche qui di fare un marketing di se stesso, di fare un marketing capace di raccogliere le opportunità che ci circondano. Però questo può essere vero per qualcuno, può essere vero per tutti. L'ambizione di questo libro è che sia vero per tutti? Allora, può essere vero per tutti a patto che ognuno scelga la sua strada, perché ci sono cose che sono nelle tue corde, magari la strada imprenditoriale, ci sono altre strade che non sono, cioè che fanno più per te. Diciamo che io non do soluzioni che vadano bene per tutti, io do soluzioni individuali, una strada prospettive individuali attraverso cui uno si può trovare la sua soluzione. Quello che ha funzionato per me magari non funziona per il mio compagno di banco del liceo, però magari per lui funziona qualcosa che con me non funzionerebbe. È un linguaggio diverso che dobbiamo imparare a parlare. Ecco, questo però è un compito, e ritorniamo al punto di prima, un compito fondamentale anche dell'educazione, della formazione, dell'istruzione. Quindi qualcosa da cambiare in questa prospettiva sicuramente c'è, e forse è un po' troppo, non è un po' troppo chiedere agli stessi giovani di cambiare loro quando percepiscono che devo cambiare, forse è un po' troppo tardi. Il problema è che non hanno la scelta, quindi se lei mi chiede, ma non è un po' ingiusto? Assolutamente sì, però la prospettiva qual è? Noi rendiamoci anche conto che veniamo da un cammino scolastico dove ti ritrovi un universitario alle prese con la tesi di laurea che chiede al suo correlatore anche come fare il font, cioè non insegniamo a ragionare con la propria testa. Il problema è che una volta laureato questo ragazzo in teoria dovrebbe essere un problem solver, sapersi proporre, in grado di agire. Abbiamo delle balie che ti certo. Guidano passo passo per tutto il cammino scolastico, poi da un giorno all'altro cavatela. Ecco, questo libro dice appunto La rivoluzione dei precari, 5 passi per costruirsi un futuro senza incertezze. Il primo passo è indubbiamente quello di comprare questo libro, il secondo è quello di leggerlo, il terzo passo? Il terzo passo è quello di applicarlo, perché a volte la critica è: se queste cose funzionassero avremmo risolto il problema del precariato. No, attenzione, sembra logico, no? Dici, hai la formula, basta applicarla. Anche le persone grasse, se le diete funzionassero, sarebbero magre, però devono farle. Parleremo tutti cinese se i corsi di cinese funzionassero? No, guarda, prima ti iscrivi al corso, poi fai gli esercizi, poi studi, ti applichi e poi parli cinese. Altrimenti sembra un po'... Ecco, in questa prospettiva appunto ci vuole molta iniziativa personale, ci vuole molta capacità personale. Allora, la sua esperienza, Lorenzo Aidi, la sua esperienza personale, quale sarà il prossimo passo dopo aver scritto questo libro? Ma io ho un'azienda che aiuta giovani imprenditori a creare e strutturare dei business anche partendo dall'idea, soltanto che il messaggio che passiamo è come nei film di Sergio Leone, no? Quando un uomo con le parole incontra l'uomo con i numeri, l'uomo con le parole è morto. Quindi allo stesso modo ti insegno, non soltanto noi abbiamo delle aziende nate oggi in Italia da bravi artigiani che dicono: perché devo arricchire il datore di lavoro? Creo la mia azienda e mi arricchisco io. Il problema è che se sai far bene le torte, non è detto che tu sappia gestire una pasticceria. E quindi è importante sapere come si gestisce la pasticceria. Quindi completare un po' il quadro e quindi aiutare quindi i giovani. Quindi non è solo il fatto di vendere un libro in più, e cosa che è altro importante, di farlo leggere, ma di far capire che c'è spazio in questa società. Strumenti che normalmente non ti danno, perché oggi oggettivamente dove studi gli strumenti economici per avviare la tua attività o per valorizzarti? Cioè, è vero che in Italia siamo particolarmente bistrattati rispetto al resto dell'Europa, però è anche vero che non sappiamo mediamente fare un curriculum, non sappiamo dividere la mail che utilizzi con i tuoi amici da quella con cui dovresti rispondere, certo, alle domande del lavoro, perché a volte mi arrivano ciccina82 alla risposta. Potremmo parlarne a lungo anche sulle prospettive concrete, sulle ricette concrete, ma lasciamo qualcosa anche a chi leggerà questo libro. Lo ricordo, Lorenzo Ait, che è stato qui con noi questa sera, La rivoluzione dei precari, 5 passi per costruirsi un futuro senza incertezze, edito da Sperling e Kupfer. Sono quasi 200 pagine per 16 euro, e 16 euro che appunto sono indubbiamente un investimento per chi vuole capire come muoversi meglio, soprattutto sul fronte giovanile in questo difficile mondo del lavoro. Grazie a Lorenzo Ait, grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Paolo Corleoni in regia, a Valentina Magri in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.